America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, da New York, Mario Platero. Una giornata un po' tesa, quella che si sta aprendo a New York, per varie ragioni. Primo, ieri abbiamo avuto un dato poco incoraggiante sul fronte della fiducia dei consumatori, sul fronte economico dunque, è caduto a 46 punti questo indice dai 56,5 di gennaio. Gli americani sono soprattutto preoccupati sul fronte occupazione, però questo significa che consumeranno meno. Giornata drammatica in congresso, sempre ieri le prime audizioni sullo scandalo Toyota. Oggi ci sarà una giornata chiave con l'audizione dell'amministratore delegato della grande casa automobilistica giapponese. Infine, grande attesa per l'audizione sempre oggi di Ben Bernanke, il governatore della Federal Reserve. Forse ci chiarirà cosa succederà in materia di tassi di interesse, ma la sua è una posizione in una botte di ferro, come si dice, perché nei giorni scorsi abbiamo visto che l'inflazione è completamente sotto controllo, ieri abbiamo visto che la propensione al consumo forse sarà in diminuzione, dunque si sentirà autorizzato a dire che i tassi resteranno bassi quanto più a lungo possibile. E passiamo adesso a un argomento che ha turbato l'America. Oprah Winfrey, la grande star della televisione, ha parlato di Amanda Knox. A media firestorm ignited. Reporters claimed Amanda was a sex-crazed party girl. They said she abused drugs and killed Meredith in an orgy of death. The European public seemed obsessed with the image of the beautiful young American hiding a dark and evil secret. Una tempesta mediatica. I giornalisti raccontano che Amanda era malata di sesso, una ragazza leggera. Dicono che abusava di droga e che ha ucciso Meredith in un'orgia di morte. Il pubblico europeo sembra ossessionato con l'immagine di una bella giovane americana che nasconde un segreto oscuro e del male. Queste le parole di Oprah Winfrey nella sua trasmissione, una delle più seguite in America. Il caso presto tornerà alla ribalta perché fra pochi giorni avremo le motivazioni della sentenza. Con Oprah in studio c'erano Kurt, il padre, Edda, la madre, la sorella di Anne di 21 anni e Delancey, la sorellina di Amanda di 11 anni. The media blows things completely out of proportion and literally makes things up over there. Il padre, Kurt, i media portano tutto al di fuori delle proporzioni, si inventano le cose. In America siamo abituati a due fonti, lì ognuno può dire quello che vuole e poi viene stampato sui giornali. La madre, Emma, era a un certo punto con i poliziotti, si stiracchiava, si toccava gli alluci, chiacchieravano, diceva riesco anche a fare la spaccata. Questo è tutto, non c'è mai stata una ritrattazione. Questo è tutto. They taped everything she said after her interrogation, but that 14-hour overnight interrogation. Un interrogatorio di 14 ore, continua la madre, senza nessuna registrazione. Senza nessuna registrazione, chiede stupita Oprah. There are days where the visits are really, really nice. And then there are days where they're extremely tough. La commozione del padre, momenti davvero delicati, il padre che dice ci sono dei giorni in cui visitarla è davvero molto molto duro, la voce rotta dalla commozione. I had one visit where she cried in my arms for 45 minutes. Piangeva nelle mie braccia, siamo stati abbracciati per 40 minuti, la voce di Oprah che racconta come i due genitori poi erano divorziati, separati, ma si sono riuniti per difendere la figlia. Amanda not being here, it hurts because to me it feels like a family should be everyone and not everybody's here. Delancey, 11 anni, la sorellina di Amanda, è un dolore non averla con noi, la famiglia deve essere unita, il fatto che lei non ci sia significa che la famiglia è spaccata, non saremo una famiglia fino a quando Amanda non sarà ritornata. Diane, 21 anni, l'altra sorella di Amanda, racconta di aver interrotto la sua università, non riesce più a studiare, cerca di stare quanto più possibile coi suoi genitori. La tua vita è bloccata, le dice Oprah Winfrey. Dunque abbiamo ascoltato un insieme degli spezzoni di questa trasmissione con cui l'America ha rivisitato questo straordinario caso che ha turbato l'Europa, ha turbato l'Italia, ha turbato naturalmente l'America. Si dice che sia stato un caso soprattutto mediatico, un caso che resta comunque confuso. Cerchiamo di chiarirlo, soprattutto dal punto di vista mediatico, con Carlo Dalla Vedova, che fa parte della squadra di difesa di Amanda Knox, un avvocato internazionale che sta a Roma in questo momento e negli Stati Uniti. Sentiamo cosa da dirci. Credo che un argomento di riflessione debba essere il processo mediatico in genere, il fatto che oggi tutti i processi di una certa rilevanza vengono in via parallela discussi nelle televisioni, negli spettacoli, sui giornali. Ovviamente si creano due processi, quello mediatico molto più veloce, e quindi si arrivano all'analisi delle prove e anche alle conclusioni molto prima del processo giudiziale, che ha i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue regole, e quindi ci vuole più tempo. Questo è successo anche nel caso di Amanda Knox? Assolutamente sì, perché sono state anticipate delle valutazioni che erano state in fase di indagine in televisione, con analisi spesso anche portate avanti da persone che non avevano diretto accesso ai documenti, quindi anche di discutibile valore, che hanno comunque nell'opinione pubblica hanno creato un processo anticipato rispetto al processo vero. C'è stata una sostituzione da parte degli inquirenti che hanno tollerato o comunque hanno avuto delle prove, testimonianze raccolte da giornalisti. C'è anche una difficoltà poi di valutare la dichiarazione proprio nella sua attendibilità. Ecco, ma scusi, ma non è successa la stessa cosa ieri con i genitori di Amanda Knox all'Oprah Winfrey Show? Si mettono in dubbio e si gettano certe ombre sul sistema giudiziario italiano? Ma guardi, innanzitutto nello specifico penso che bisogna rispettare il dolore di questa famiglia, quindi è molto difficile valutare una madre e un padre che hanno una figlia in carcere con una sentenza così pesante, che tipo di comportamenti e relazioni. Loro stanno in qualsiasi momento cercando di fare del bene per la propria figlia, e quindi proprio come conseguenza di questa attenzione mediatica cercano di mandare dei messaggi e di fare quello che è possibile. Quindi innanzitutto io su questo argomento veramente ho poco da commentare, se non il fatto che dire che bisogna rispettare il dolore di questa famiglia. Ecco, vuol dire forse che c'è un rapporto simbiotico, troppo simbiotico, fra un certo giornalismo investigativo e certe procure in Italia? Beh, questo è nella realtà dei fatti. Ripeto, non credo che ci sia né una malafede o nulla, nel senso che sono due legittime attività, quella del giornalista alla ricerca della notizia e dell'investigatore della ricerca di prove, di indizi, di testimonianze, di documenti. Quindi certe volte si incrociano. La delega e la tolleranza, secondo me, cioè il vero problema è che il processo giudiziale è l'unico che conta e che è l'unica sede dove si possono valutare in contraddittorio, nel rispetto dei principi del giusto processo, ai fini di stabilire la verità. Quindi quello che succede è che l'opinione pubblica spesso viene influenzata da queste attività derivanti dal processo mediatico. Questo credo che sia l'oggetto di una valutazione, forse di una regolamentazione. Ecco, avvocato Dalla Vedova, torniamo a Amanda. Nell'Oprah Show abbiamo visto i genitori proiettare solo un punto di vista. Lei ha un commento da farci sull'esito del processo? Dunque, questo è un processo molto difficile, quindi l'esito in appello noi ci auguriamo che sia una riforma della sentenza. Amanda si proclama innocente e noi aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza, che saranno depositate entro il 5 di marzo, per fare le nostre valutazioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ieri abbiamo appreso che Judy Pisano, moglie di John Belushi, ha deciso di portare sul piccolo schermo una versione televisiva dei Blues Brothers. Dunque, torniamo al 1980 con la canzone più famosa di allora, Everybody. Everybody needs somebody to love, they Blues Brothers. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!